C'è nell'aria un sapore di desiderio. Quello che contorce il labbro dopo un bacio di passione. C'è disegnato sui tuoi fianchi il piacere di una luna morbida. C'è il sangue, il grano e l'acqua dolce del tuo sorriso. Qualcosa che si agita nei tuoi sedi e spegnendolo resti impigliato. Rapito dall'acerbo improvviso tramonto. Ah, che tramonto. C'è qualcosa che mi fa cedere davanti al tuo corpo nudo, mentre corre la notte argentata. La notte argentata. Sono i tuoi occhi grandi, le tue mani affusolate, la tua bocca è il tremolo piacere dichiarato che ruba ogni stella. C'è qualcosa che si ripete nei tuoi passi, nei tuoi passi. È il desiderio di un nuovo cammino che giunga fino al colmo sottile della tua bellezza, per poi sfiorire quando piano ti tocco e rompe il giorno. Nell'aria sei, nell'aria nell'aria ed è tutto intorno a me. Nell'aria sei, nell'aria è. Mondo, mondo, il mio mondo, il mondo, sei tu il mio mondo, sei tu il mio mondo, ed è tutto intorno a me.